Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Sono contento perché finalmente anche a Möbius riusciamo a parlare di quel pezzo fondamentale della storia d'Italia che fu Carosello. Adesso i titoli e poi arriva Carosello. Cosa mi sono messo in testa? La domanda della settimana arriva da Lucia. Vuole sapere se la brillantina o simili sono dannosi per i capelli. Una manciata di metri quadri, un piccolo mondo pieno di fobie e ritualità. Una ricerca americana ci spiega come ci muoviamo e come comunichiamo in ascensore. Un ombrello completamente riciclabile. Un sistema per controllare dispositivi elettronici direttamente col pensiero. Sono idee innovative di giovani ricercatori italiani che stanno riscuotendo successo nel mondo. Un filosofo americano racconta come il quoziente intellettivo sia aumentato negli ultimi decenni. Parliamo delle motivazioni di questa tendenza con lo storico della medicina, Gilberto Corbellini. Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Ecco chi non sbaglia. Ho sempre usato la brillantina Linetti. Questa mattina ho messo la brillantina Linetti e adesso a testa alta. Brillantina Linetti. Il giornalaio mi ha salutato. La segretaria mi ha sorriso. A testa alta. Linetti. La brillantina dei vostri capelli, che contiene BioSteam, un complesso vitaminico tonificante. In confezione liquida, solida, spray. Linetti. Oh, la famosa musichetta di Carosello. Chiara non si ricorda. Io non l'ho mai visto, Carosello. Ma tu invece hai fatto in tempo? Ahimè sì, ho fatto in tempo. E questo qui che parlava era? Era l'ispettore Rock. Che a un certo momento, dopo aver risolto il caso, si toglie il cappello e noi scopriamo che ha commesso un errore. Era calvo. Non usava la brillantina Linetti. Ecco, perché noi stiamo facendo tutta questa pantomima? Perché la nostra ascoltatrice Lucia ci ha porto questa apertura su un vassoio d'argento. Sentiamo Lucia. Quando ero piccola c'era una scenetta di Carosello in cui l'ispettore Rock diceva che era diventato calvo perché non aveva usato la brillantina Linetti. Però mio padre diceva che quella roba per lui era un disastro, faceva davvero male. È vero che brillantine gel fanno male ai capelli? È vero che la brillantina Linetti faceva male ai capelli? Io non lo posso credere. Però dobbiamo chiamare un esperto. Dobbiamo chiamare un esperto e l'esperto ce l'abbiamo. È il professor Massimiliano Pazzaglia, dermatologo dell'Università di Bologna. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Buonasera, Pazzaglia. Allora, brillantina una volta e gel oggi. Sì, però mi dispiace smentire il commissario Rocca, ma non è vero. Non vi è alcuna relazione fra l'applicazione dei prodotti per l'acconciatura dei capelli e la caduta dei capelli. E d'altro canto non è neanche vero che esistano dei cosmetici, dei gel o delle brillantine che facciano crescere, anche se la Linetti appunto diceva di essere addizionato da un complesso vitaminico. Tutti questi prodotti non penetrano attraverso il cuoio capelluto, si depositano sul fusto del capello e per questo non possono avere né un effetto positivo né tantomeno negativo sul follicolo, che è la parte nobile del capello, ossia quella parte dove il capello cresce. Quindi la funzione è esclusivamente estetica? Esclusivamente estetica. E perché ricordiamolo, insomma, il capello in realtà sono cellule morte, solo il bulbo è vivo. Esattamente, la parte che a noi interessa di più, che è rappresentata dal fusto, diciamo così, è in realtà una struttura morta, perché è costituita da cellule che sono completamente cheratinizzate, che hanno perso il nucleo e quindi le loro funzioni vitali. Ecco, ma mi scusi, quella mappazza della brillantina non è che fa qualcosa pure al nucleo, faceva? No, assolutamente, proprio perché si deposita sia sul fusto che a livello del cuoio capelluto, non penetrando quindi dove ci sono le cellule con nucleo, che è il follicolo pilifero. Quindi non faceva né male né bene, cioè ti attribuiva questa lucentezza pazzesca, ma in realtà non faceva nulla. Esatto, si poteva andare a testa alta, come dicevano, col capello impomatato, diciamo così, ma da un punto di vista della caduta o della ricrescita è assolutamente non determina né l'una né l'altra. Poi la funzione estetica comunque è discutibile, insomma, anche quella. E beh, i tempi, però, i periodi. I tempi cambiano e quindi da questo punto di vista pensiamo solo, proprio è anche interessante perché la storia può essere analizzata anche dal tipo di acconciatura, no? Se pensiamo alle parrucche del 1600 o ai riporti dell'inizio Novecento, cose che adesso non vengono assolutamente più utilizzate. Beh, qualche riportino estremo. Però non più come una volta. Non più come una volta. Pensate negli anni 60-70 il riporto era ordinario, diciamo così. Senta Bazzaglia, colgo l'occasione. È vero però che esistono dei prodotti che farebbero crescere i capelli, però in realtà farebbero crescere i peli ovunque e uno si trasforma in un cespuglio? Beh, allora, mamma mia, e circola questa voce. In primo luogo bisogna vedere un attimo il tipo di problema che ha determinato la caduta di capelli, perché il capello sa fare solo una cosa che è cadere, ma le malattie che possono determinare le alopecie e le cadute di capelli sono centinaia, quindi essenziale è capire il perché c'è una caduta di capelli. Se parliamo della più comune forma, che è l'alopecia androgenetica, la calvizie, è chiaro che in primo luogo non ci troviamo davanti ad una malattia, ma sostanzialmente è un condizionamento genetico, è un aspetto ereditario di ciascuno di noi. E esistono delle terapie farmacologiche che fanno ricrescere però solo i capelli in testa, non i peli in altre zone del corpo. E invece quello che si dice a proposito di come si trattano i capelli, quindi lavarli troppo fa male, tagliarli frequentemente, corti, li irrobustisce? Rientriamo nel discorso di prima, sì, i falsi miti. Da un punto di vista del tagliare i capelli corti purtroppo non è vero, nel senso non è che... Non rinforzano. Assolutamente no, voi sapete che ci sono ragazzi che si rasano i capelli tutti i giorni e via via diventano sempre più calvi, ci sono ragazzi e ragazze che ad esempio hanno i dread, hanno quelle acconciature rasta che non si tagliano i capelli da 10 anni e ne hanno di bellissimi, quindi assolutamente non ha nessun significato. Quante frottole sui capelli. No, ecco, l'unica cosa che posso immaginare è che ci sono dei prodotti che li rendono più lucenti, quindi più belli, meno sfibrati, ma quello è semplicemente una questione della cura del capello, della cura, di come sono fatti, perché sono fatti a scaglie e queste scaglie, diciamo, vengono pettinate, vengono lisciate. Torniamo alla funzione estetica, insomma. Esatto. Grazie professore, è stato chiarissimo. Sì, è vero, abbiamo spaccato il capello in quattro. Infatti mi aspettavo che tu uscissi con questa battuta. Grazie Pazzaglia. Benissimo, a voi. E adesso il traffico, cosa sarà successo? Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Gesù, cosa succede? Perché ci fermiamo? Rilassati. Non dirmi rilassati, se sono un claustrofobico di fama mondiale. Smetti, non mi piace. Ehi là! Aspetta, oddio, io sto correndo libero per i prati, sì, vedo aperti spazi, io vedo uno stallone, sono uno stallone, c'è una fresca freccia che mi accarezza, vedo Ebba, vedo le tane. Incrocia le dita. Il mio respiro. Insomma, basta, non ho che dallentarlo, ok? Io ora svengo perché c'è... Va bene, unisci le mani. Aspetta. Ma sono fatti per aprirsi. Ho paura. Oh mio Dio. Lei. Oh Gesù, claustrofobia è un cadavere. Questo è l'amplen del nevrotico. Vabbè, certo, non in tutte le ascensori, come in questa scena di Woody Allen, succede che cade il cadavere, cade di anche qualcuno. Un cadavere dal soffitto. Allora, era misterioso omicidio Manhattan, dai, l'avremmo riconosciuto, Woody Allen e Diane Keaton. Tutto questo per introdurre che cosa? Il tema ascensore. Chiusi dentro. Allora, perché parliamo di questo? Perché recentemente è uscita una ricerca di un americano soprannominato il signor ascensore, proprio perché lui si occupa, studia questo, della sociologia, della psicologia sociale dentro l'ascensore. Lui si chiama Lee Gray dell'Università del North Carolina, però ho scoperto che in Italia c'è qualcuno che se ne occupa. Anche in Italia. Un ascensorologo. Un signor ascensore anche in Italia. In realtà si occupa, senti che parola ho imparato, di prosemica dell'ascensore. Ora, insomma, facciamo spiegare tutto e parliamo anche della ricerca sia italiana che americana con il nostro signor ascensore, il professor Marco Costa. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Buonasera, Costa. Lei è docente di psicologia all'Università di Bologna e Cesena e appunto si occupa di questi comportamenti strani all'interno dell'ascensore. Perché? Perché c'è un aspetto patologico, che è quello della claustrofobia, che abbiamo sentito in Woody Allen, ed è chiaro. Ma c'è anche un aspetto sociale, per cui l'ascensore è un piccolo teatro, un piccolo mondo, dove la nostra intimità praticamente si incrocia con quella di altri, sia per spazio, ma anche perché, cioè, si incrociano gli sguardi. Quindi è un mondo, un piccolo mondo nel mondo. Poi ci si tocca. Ecco, professor Costa, parliamo di questa ricerca americana. Che cosa è venuto fuori? Diciamo che la particolarità dell'ascensore è quello di creare una situazione di intimità dovuto allo spazio molto ristretto e alla chiusura dell'ambiente tra persone che normalmente non sono in un rapporto intimo fra di loro. Quindi crea un contrasto. Per rendere questo contrasto non stressante si mettono in atto delle strategie per cui si aumenta virtualmente la distanza fisica, e queste strategie sono quelle di non guardarsi negli occhi, quelli di stare fianco a fianco, che è una situazione non così coinvolgente come lo stare faccia a faccia, e di massimizzare la distanza quando si entra nell'ascensore rispetto a chi già lo sta occupando, quello di volgere lo sguardo verso elementi neutri come possono essere l'indicazione del numero del piano, l'etichetta del carico massimo dell'ascensore, il soffitto, guardare in alto, guardare il cellulare adesso che c'è. Adesso il cellulare dovrebbe essere utile. Diciamo evitare di incrociare gli occhi. Questa poi è una situazione che si accomuna con il comportamento in situazioni affollate, come ad esempio all'interno di un autobus molto affollato, in cui anche in questo caso siamo ad una distanza intima, però con persone sconosciute. Però lì la dimensione è un po' più ampia, ecco, se vogliamo dire, perché proprio lo spazio dell'ascensore è veramente angusto, vabbè, a parte i grossi ascensori di Manhattan, però insomma. Il spazio è molto piccolo. Inoltre la peculiarità dell'ascensore è che chi lo frequenta non ha nessun controllo sul mezzo, se non quello di schiacciare il pulsante. Cioè, a differenza di un altro mezzo in cui noi comunque abbiamo la possibilità di determinarne più parametri, nell'ascensore abbiamo la sensazione psicologica di essere proprio lasciati e avere poco controllo, e questo suscita più stress e più ansia in alcuni soggetti particolarmente. Comunque, per quanto riguarda le dimensioni, si possono mettere in atto delle strategie per aumentare la dimensione percepita. Ad esempio, in molti ascensori viene utilizzato uno specchio, e lo specchio ha la funzione non solo narcisistica di controllarsi mentre si va in ascensore, ma anche quello di aumentare la dimensione percepita dell'ascensore. E diceva che ci sono stati anche degli studi in cui venivano messe delle raffigurazioni, ad esempio di paesaggi, per dare l'impressione. Sì, quello che abbiamo fatto noi, ad esempio, all'interno dell'ascensore si metteva un arredamento che prevedeva ad esempio delle scene paesaggistiche, le quali hanno sempre lo scopo di aumentare la dimensione percepita, e quindi di non avere la sensazione di trovarsi in un luogo molto angusto, e quindi di rendere il transito in ascensore meno, diciamo, meno ansioso. E qui ricordo la citazione di Woody Allen, quando l'abbiamo sentita, dice: sì, cammino in un prato, sono uno stallone, proprio perché lui è sempre molto attento anche a questi aspetti psicologici nei suoi film. Una cosa molto interessante è che adesso c'è anche la tendenza in molti edifici di mettere un ascensore panoramico, cioè l'ascensore non si trova nella struttura interna dell'edificio, si trova esternamente, per cui chi frequenta l'ascensore ascendendo ha la possibilità di ammirare, diciamo, tutto il panorama. Poi lì si aggiunge tutta una questione di vertigini, ma questo è un altro discorso. Che è un bel problema, certo. Per certi versi è un ritorno all'antico, perché gli ascensori una volta avevano tutti i vetri, erano in legno, adesso certo sono. Le chiedo una cosa, in Cina l'ascensore medio porta 60 persone per la densità abitativa, non è solo nei grattacieli. Non vi incuriosisce l'idea di studiare cosa combinano i cinesi sugli ascensori? La dinamica cambia in modo sostanziale rispetto anche ai risultati della ricerca che è stata pubblicata, in quanto se io crea un ascensore molto grande, diminuisce questo senso di intimità che si crea fra i frequentatori, e quindi un ascensore molto grande con molte persone non c'è questa sensazione psicologica di dover stare ad una distanza intima da persone in un luogo chiuso, ecco. Quindi in un ascensore molto grande si mettono in alto delle dinamiche, diciamo, più naturali, e un utilizzo delle distanze che crea meno imbarazzo. Meno imbarazzo. Qui noi abbiamo la situazione più drammatica quando ci si trova in due. Ma infatti su questo c'è questa la ricerca americana, e poi mi diceva Costa che anche loro hanno studiato questo fenomeno, ci si dispone come i punti delle facce di un dado. Vale a dire, due persone si posizionano ai vertici opposti dell'ascensore. Se sono in tre, ci si posiziona nei tre vertici, quindi allontanandoci il più possibile dagli altri. Poi, mano a mano che si aumenta, ci si dispone in quattro, in cinque, quindi con uno al centro, in sei, quindi diciamo su due colonne, così, no Costa? Diciamo, sono regole molto quasi matematiche, molto precise, tese ad evitare l'invasione dello spazio personale altrui. Per cui quando si entra nell'ascensore si cerca di, all'inizio, di massimizzare la distanza, di evitare la posizione faccia a faccia, quindi inizialmente ci si dispone diagonalmente e poi fianco a fianco, e solo come estrema ratio ci si mette fronte a fronte. Ma è molto interessante che questo è un comportamento che mettiamo in atto anche quando scegliamo il nostro posto all'interno di una carrozza ferroviaria. Anche all'interno di una carrozza ferroviaria tendiamo a massimizzare le distanze e a porci di fronte a chi ha di fronte ad un sedile, e soltanto quando tutti gli altri posti sono già occupati. È vero. Quindi sono regole per evitare la sensazione di invasione dello spazio personale. E questa proprio disciplina si chiama prossemica, infatti dicevamo all'inizio, è corretto? E deriva dal fatto che psicologicamente noi non terminiamo col nostro corpo, ma psicologicamente noi abbiamo una sorta di bolla che è l'estensione della nostra persona e che ci portiamo dietro. Certo, ma... quando io mi avvicino ad una persona, mi avvicino ad una distanza che segnala il mio rapporto interpersonale. Ad esempio, con una persona con cui ho un rapporto di intimità, mi fermerò ad una distanza che è inferiore a 60 centimetri, ma con un mio amico ad una distanza che è circa da 60 a 120, con un estraneo ad una distanza che è circa superiore a 1,20. Quindi il mio rapportarmi con le altre persone deriva dal rapporto che io ho con esse in funzione di questa bolla che ci portiamo dietro. Ecco. Abbiamo una certa grassitudine psicologica. Esatto. Esatto, cioè psicologicamente noi non terminiamo col nostro corpo, ma abbiamo un'influenza. Tenete conto che la cosa interessante è che questa bolla in taluni casi può avere delle dimensioni enormi. Ad esempio, un professore che tiene lezione in quel momento regola le distanze dell'intera classe. Oppure in una cerimonia, chi guida quella cerimonia sta influenzando con le distanze, diciamo, l'intera classe. E questo è molto interessante anche in ascensore. Ad esempio, se io vedo che in ascensore va un mio superiore ad una persona di altissimo rango, sono estremamente riluttante ad andare in ascensore anch'io, perché sto ancora di più violando queste regole di rapporto sociale. Viceversa, se vado con persone che sono del mio stesso status, ho meno remore, meno esperienza di ansia e posso stare anche più sovraffollato. Grazie Costa, noi abbiamo dato per scontato che salissimo sull'ascensore con degli estranei, perché se saliamo con qualcuno che, insomma, con cui abbiamo una relazione, può succedere di tutto. Ci sono altre situazioni. C'è anche chi ferma l'ascensore, esatto, e fa delle cose. Va bene, grazie professor Costa. Grazie a voi, buonasera. Buona serata e buon lavoro. Pausa e poi idee innovative. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In questa parte della trasmissione ci interessiamo di innovazione, di giovane innovazione, di start-up, che sono appunto le aziende che partono. È qui con me questa sera Gianluca Savalli. Buonasera Savalli. Buonasera a lei. Lo studio è piccolo e quindi non può contenere anche gli altri due soci di questa impresa, che sono Federico Venturi, il vero inventore di questo oggetto, e Marco Righi, che in questo momento è in viaggio di lavoro. E avete inventato l'ombrello, che si chiama Ginkgo. Ginkgo, sì, come l'albero. Come il Ginkgo biloba. Esatto, esatto. Che attualmente è l'albero più antico che abbiamo, no, presente. Ma c'entra qualcosa? E l'abbiamo scoperto poco dopo avergli dato il nome, ed è stata una piacevole scoperta, perché comunque... Vabbè, cos'è che ha di particolare questo ombrello qua? Questo ombrello è completamente fatto di plastica, è completamente riciclabile nel momento in cui si dovesse rompere, ma è anche più resistente degli attuali ombrelli, perché fa leva sulla elasticità della plastica invece che sulla rigidezza del metallo. E già, perché negli ombrelli c'è questo scheletro metallico. Esatto. Che tutto riciclabile vuol dire anche che non c'è stoffa. Non c'è stoffa, anche il telo è realizzato nella stessa plastica del resto dell'ombrello, tutto soltanto polipropilene. Tutto soltanto polipropilene. Sì. ormai la plastica la recuperiamo e quindi è completamente riciclabile. Esatto. Anche il manico, proprio tutto. Ogni singolo componente. Ogni singolo componente, sì. Anche con la levettina che bisogna schiacciare. Quello è un altro discorso, gli ombrelli adesso sono fatti di circa 120 pezzi. 120 pezzi? Sì, li abbiamo ridotti a 19 per poterli realizzare tutti di plastica e farli tutti riciclabili. Ok. E il tutto dal punto di vista dei costi? E il costo è leggermente inferiore a parità di volumi prodotti, ovviamente, di quello degli ombrelli normali di metallo. Sì, è un ombrello ampio, grande, normale, insomma, non hai nulla da invidiare con quelli come grandezza. Insomma. Ora come ora la dimensione è quella dei normali ombrelli compatti, quelli ripiegabili, sì. No? E c'è già in sviluppo per il futuro l'ombrello ad asta rigida e l'ombrello ultra compatto. Quello piccolino che si riesce a mettere in una valigetta. Sì. Voi uscite dal Politecnico di Milano? Sì, siamo venuti fuori dal Politecnico di Milano che ci ha fatto passare dall'idea dell'oggetto all'idea di attività, di impresa, il progetto vero e proprio, diciamo. E abbiamo partecipato ad un concorso, l'Idea to Product l'anno scorso, vincendolo. E ci ha spianato parecchie strade. Anzi, vorrei consigliarlo a studenti con idee innovative, carine. Sì. Rivolgetevi all'acceleratore di impresa del Politecnico di Milano. Qui proprio pubblicità. Sì, sì, no, assolutamente, perché la gente non lo conosce. La gente non lo conosce. Ci ha aperto veramente l'attività. Dov'è che lo compriamo questo ombrello? È ancora presto per parlarne. Stiamo mettendo in moto tutta la macchina per arrivare a realizzarlo, insomma, in volumi importanti. Immagino. A breve, ci vorrà qualche mese, un anno. A gennaio avremo gli oggetti finiti. Sarà possibile iniziare a prenotarli a partire da qualche mese tramite il nostro sito, se qualcuno fosse interessato a vederlo. Perché fate anche vendita online? In questo momento non sarà ancora vendita online, è possibile prenotarlo. Okay. Partiamo con una campagna di raccolta fondi su Indiegogo, quindi tramite quello lì sarà possibile prenotarlo. Va bene, allora andando al nostro sito della trasmissione, okay. www.moebiusonline.eu, trovate le indicazioni. Perfetto. Per arrivare al vostro sito. Grazie Savalli e auguri. Grazie a lei, buona serata. E adesso passiamo a un'altra innovazione, un'altra startup. Abbiamo parlato di una cosa molto utile, ma estremamente anche divertente, questa dell'ombrello. Tutto in plastica e quindi completamente riciclabile. Qui entriamo invece in un campo decisamente più serio. Lo faccio con Pasquale Fedele. Buonasera Fedele. Buonasera. Della Liquid Web, è la startup appunto che è stata. Siete basati a Siena, no? Se non sbaglio? L'Università, esatto, di Siena. Sì, a Siena. Uscita dall'Università di Siena. Però il prodotto, l'oggetto, l'apparecchiatura in questo caso che voi avete progettato si chiama Brain Control ed è qualcosa, è un'apparecchiatura biomedica. Brain Control sembrerebbe rimandare a controllo del cervello, ma in realtà è controllo attraverso il cervello. Ci spieghi, esatto, un po' di che cosa si tratta? Sì, Brain Control è un dispositivo che consente a pazienti affetti da patologie come SLA, sclerosi multipla, tetraplegia di varia natura e quindi con problematiche relative al movimento, alla comunicazione, di poter controllare dei dispositivi, quindi delle tecnologie assistive, mediante la mente, mediante il pensiero. Quindi immaginiamo il controllo di un comunicatore per fare la sintesi di messaggi vocali o comunicare via email, social network, SMS, sì, o il controllo della domotica per rendere un po' di autonomia a queste persone con... che di solito hanno gravissimi, se non totali, quasi impedimenti nel muovere gli altri, però il movimento oculare, per esempio, può funzionare. Io ho visto dei video in cui una persona, tra l'altro poi al termine dell'operazione esprimeva un suo grande sorriso, riusciva a far muovere un braccio robotico che gli portava un bicchiere alla bocca, per esempio. Esatto, sì. Diciamo, il sistema di appuntamento oculare è una tecnologia che esiste e che ha dei limiti. Noi abbiamo cercato di superare i limiti di questa tecnologia andando a intercettare un'intenzione di movimento direttamente, andando a leggere l'attività elettrica, gli impulsi elettrici nella corteccia cerebrale con dei sensori non invasivi. Quello a cui si faceva riferimento a lei utilizzava dei sensori invasivi che vengono impiantati. Noi utilizzando dei sensori commerciali, i sensori che si utilizzava per l'elettroencefalografia, andiamo quindi una sorta di caschetto. Si va a consentire al paziente di utilizzare il pensiero come una sorta di joystick mentale, quindi come se muovesse un mouse, come se muovesse un joystick per controllare l'interfaccia di un tablet, e quindi tutta una serie di funzionalità che via via che abbiamo implementato in parte e altre che stiamo continuando a sviluppare. Quindi il paziente intanto ha in testa un caschetto come quello che lei diceva poco fa, si usano per le rilevazioni encefalografiche, e quindi non ha bisogno di avere un circuito impiantato sotto pelle, questa è una differenza. Esatto, e addirittura un caschetto anche meno invasivo di quello che si utilizza nell'elettroencefalografia, in quanto non ha un gel, quindi sono dei sensori che vanno solo appoggiati sulla testa. Molto semplice. E quindi è meno invasivo anche di quelli. Tramite questo caschetto, quindi, che comunica in wireless col tablet, può controllare il comunicatore, la domotica e così via. Ecco, invece l'altra parte è questa, cioè questa comunicazione avviene tra il paziente e un tablet, e poi è il tablet che interagisce con delle apparecchiature intorno, esatto, che possono svolgere delle funzioni. Certo. Esatto. Nel caso della domotica sono appunto per essere temperatura dell'ambiente, piuttosto che accensione delle luci e così via. Stiamo lavorando anche con un'azienda che si occupa di robotica per poter un domani controllare dei robot umanoidi piuttosto che degli esoscheletri. Attualmente lo stato dello sviluppo a cui siamo arrivati è un comunicatore basilare che consente di sintetizzare una serie di messaggi predefiniti e personalizzabili, ed è mirato in particolare per un sottoinsieme di pazienti che sono quelli nella condizione più grave, ovvero in locked-in come apparente, che attualmente non avrebbero alcuna altra alternativa per poter interagire col mondo che li circonda. E grazie a questo dispositivo da alcuni mesi ci sono dei pazienti che sono ritornati a interagire col mondo grazie a questa possibilità. No, lo scenario è uno dei più interessanti che si stanno aprendo per questo tipo di patologie, che sono, come dire, totalmente inabilitanti, e quindi per questi pazienti si apre un mondo intero. Le chiedo, adesso questo tipo di apparecchiature come la vostra, insomma, stanno arrivando, come siamo messi con i costi? Cioè, sono delle cose che possono essere fornite a costi abbordabili? Allora, facciamo sempre il paragone con quelli che sono i sistemi di eye tracking, appuntamento oculare, di cui parlavamo prima, che sono sul mercato quelli che funzionano bene, fra cifre tra i 15 e i 20 mila euro. Noi stiamo proponendo intorno ai 5 mila euro il sistema Brain Control, quindi diciamo è una cifra sicuramente importante, però decisamente più bassa di quella che è la tecnologia di riferimento attuale. Sì, certo, 5.000 euro sono sempre 5.000 euro, però rispetto a quello che si riesce ad ottenere è un investimento elevato. Poi probabilmente potrà anche rientrare forse negli strumenti forniti gratuitamente dal servizio sanitario, probabilmente adesso no, perché non sono ancora, come dire, registrati, però ci si arriverà. Esatto. Sì, ci stiamo lavorando, e questo è un obiettivo anche in collaborazione con ARISLA per affinché possa essere, diciamo, incluso nel nomenclatore tariffario e quindi poter essere ancora più abbordabile come. Le chiedo un'ultima cosa, Fedele, ed è questa rapidamente: quando noi parliamo di queste cose c'è sempre della gente che allora giustamente si fa viva. Questo è già un prodotto acquistabile da qualche parte? Allora sì, è da qualche giorno già acquistabile, contattandoci tramite il nostro sito web, che si trovano i contatti, quindi proprio da alcuni giorni abbiamo avviato. Va bene, allora andando al nostro sito della trasmissione Moebius Scienza, basta digitare, lo trovate, troveremo l'indirizzo del vostro sito web. Grazie Pasquale Fedele e buon lavoro. Grazie, buonasera. Siamo tornati a capire se qualcosa è cambiato nel traffico. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. James Flynn, filosofo americano, ha scritto due libri intorno al quoziente di intelligenza e su questi libri non ancora pubblicati in Italia ha scritto Gilberto Corbellini. Buonasera Gilberto. Buonasera. Editorialista stabile su molte attività pubblicistiche, in particolare sul domenicale del Sole 24 Ore, e tu hai scritto proprio un articolo, Istruzioni per diventare intelligenti, un paio di settimane fa sul domenicale, recensendo questi due libri di James Flynn che sono dedicati al quoziente di intelligenza. Una prima cosa che ti chiedo al volo e rapidamente, probabilmente è girata abbastanza quest'idea nel tempo, direi negli ultimi 30 anni, 40 anni, che il quoziente di intelligenza non fosse invece particolarmente misurabile. Qui invece si può sostenere che in un certo modo è un indicatore utile. Sì, no, il quoziente di intelligenza è un indicatore quantitativo utile perché empiricamente rileva una capacità generale, cioè rileva un fattore che è l'intelligenza, che poi è composto di tanti elementi, insomma, quindi si parla di intelligenza generale e gli psicometristi lo chiamano G, poi intelligenza generale viene suddivisa in intelligenza cristallizzata, in intelligenza fluida, insomma in tutta una serie di componenti, ci sono diversi, diciamo, test che misurano queste differenti componenti. Certo, l'importante è non prenderlo in un modo troppo lato e pensare che esso misuri quanto siamo vicini, no, ad Einstein, non è questa l'indicazione che ci può dare. No, assolutamente, cioè misura quanto una serie di predisposizioni che sono distribuite, tra virgolette, equamente, diciamo, nella società, vengono effettivamente valorizzate e, come dire, coltivate in alcuni particolari contesti culturali e sociali. Misura però, diciamo, alcune facoltà proprio di base, insomma, di funzionamento della nostra mente, per esempio la capacità di avere un pensiero un po' astratto, che non sia troppo legato alle cose che maneggiamo, che abbiamo intorno, no? Esattamente, quindi ci sono dei quozienti, cioè dei test di intelligenza, il Welsher e tutta una serie di altri test che valutano proprio la capacità di astrazione e quindi anche di ragionamento logico, quindi tutta una serie di elementi che si sono diffusi con la scolarizzazione nella società, mentre le persone che non erano andate a scuole, che non hanno studiato in modo particolare le scienze, che non hanno appreso in una certa maniera la grammatica, di fatto queste capacità, come hanno visto molti studiosi e molti psicologi, queste capacità non le misurano. Insomma, per fare un esempio, se si chiedeva a dei contadini analfabeti, come ha scoperto Alexander Luria negli anni 20 andando a visitare alcuni contadini della Siberia, se si chiede a dei contadini analfabeti o si fa un ragionamento di questo genere, che ne so, a tutte le persone che vivono al Polo Nord hanno la barba bianca, X vive al Polo Nord, di che colore avrà la barba? Queste persone magari dicono: ma io non sono mai stato al Polo Nord, ecco, non posso, certo, saperlo. Tirano fuori una come dire, una modalità di rapporto molto concreto, quindi se non tocco non vedo, ecco che viene a mancare il pensiero astratto, esatto. Insomma, certo. Tu dici all'inizio dell'articolo che all'inizio di quest'estate, l'estate di quest'anno, era circolata intorno a questi libri di James Flynn una informazione sbagliata della quale lui stesso si è dispiaciuto, e cioè che dalle ricerche ultime venissero fuori delle differenze fra uomini e donne nel quoziente intelligenza, con le donne che risulterebbero più brave. Sì, beh, c'è sempre questa componente, insomma, per cui i quozienti di intelligenza e i test vengono usati in una chiave, come dire, di giudizio, di cercare di dire che qualcuno è meglio di qualcun altro. Sì, ognuno se lo tira dalla sua parte. Bianchi, che erano più intelligenti dei neri. Flynn, tra l'altro, ha lavorato proprio su questo, e adesso in questo caso cioè dire che le donne sono più intelligenti degli uomini è una cosa, insomma, che fa notizia. Invece non faceva notizia spiegare cosa effettivamente è stato scoperto. Cioè, è stato scoperto che l'effetto Flynn, cioè un aumento delle prestazioni delle donne nei test di intelligenza che misurano queste capacità logico-astratte, che prima erano queste prestazioni più basse, anche un po' più basse degli uomini, adesso sono diventate pari agli uomini e in alcune situazioni hanno dato anche qualche risultato migliore degli uomini. certo. E questo, invece, prendendo tutto il discorso di Flynn, deve rientrare in una dimensione che effettivamente possiamo dire toccare con mano, cioè un miglioramento generale del contesto in cui le persone si trovano, per esempio la famiglia. E qui ci sono appunto delle considerazioni interessanti che si possono fare di crescita in alcune zone del mondo, no? E per esempio di stabilità in altre. No, ecco, questo è interessante perché in realtà Flynn, che è un filosofo morale, è diventato uno psicometrista, perché lui, quando sono stati pubblicati dei dati nel 68 sul fatto che i neri davano delle prestazioni inferiori nel quoziente intelligenza, lui all'inizio non voleva crederci, poi è andato a vedere e ha visto che invece era effettivamente era così. Ora, mentre tutta una serie di figure come anche Stephen Jay Gould ha detto ma no, il quoziente intelligenza non vale niente, qui c'è tutta un'ideologia sul quoziente intelligenza, lui invece ha detto no, non è vero, cioè qui i dati sono questi, qui abbiamo le misure, dobbiamo spiegarle. Come mai? Alcuni psicometristi richiamavano la genetica e quindi tutte le componenti razziali, lui invece ha studiato un po' meglio il problema e ha visto che la questione era legata alle condizioni di maturazione psicologica e cognitiva dei bambini. E questo qua l'ha studiato poi più in generale e ha fatto vedere che in realtà questo effetto Flynn, cioè questo aumento dell'intelligenza, ma di un'intelligenza di tipo logico astratto, perché su tutti gli altri test in realtà non c'è stato questo grande aumento, questo aumento, diciamo, di questa componente dell'intelligenza, lui ha fatto vedere che è legato a due processi, diciamo, al fatto che le famiglie sono diventate meno numerose, i genitori sono più istruiti, si presta più attenzione ai bambini, li si parla, li si ascolta, li si risponde, li si corregge, eccetera, e poi questo va a inserirsi anche nel processo di scolarizzazione, per cui è veramente un fenomeno caratteristico del modo in cui in Occidente, diciamo, è cambiata proprio la maturazione culturale e, diciamo, certo, chiaramente è cambiato il ruolo della scienza. E quindi dove c'è stato un progresso familiare, vediamo il quoziente di intelligenza che cresce, in paesi con una situazione familiare stabile come la Scandinavia vediamo invece che resta costante, e forse anche per quanto riguarda le donne, beh certo, vivono una condizione meno repressiva e quindi la loro mente funziona meglio. C'è un'ultima cosa sulla quale vorrei che tu ci dicessi qualcosa, ed è quella che riguarda purtroppo un dato molto spiacevole, sgradevole sempre, cioè l'uso del quoziente di intelligenza negli Stati Uniti per, in relazione alla condanna a morte, perché se una persona viene considerata, come dire, al di sotto di certe facoltà mentali, il quoziente di intelligenza da 70, deve dare 70 come valore massimo, allora può essere non condannata a morte. Qui però, anche qui, succede una cosa strana. E succede una cosa strana perché l'effetto Flynn vale per tutte quante le prestazioni di quoziente intelligenza, per cui se un condannato a morte viene sottoposto a un test di intelligenza che non è stato aggiornato, per esempio il test di intelligenza di 20 anni fa, lui ovviamente può, fortunatamente per lui, dare un risultato maggiore di 70 e quindi sfuggire, diciamo, non essere condannato a morte, però questo però vuol dire, diciamo, che in sostanza si crea una situazione di discriminazione, perché qualcuno che era nelle stesse condizioni di questa persona 20 anni fa veniva condannata a morte, oggi non lo viene, non lo è più, e quindi c'è un problema di aggiornamento, in qualche cosa di adeguamento, di necessità di adeguare i test di intelligenza ai cambiamenti e a questo fenomeno che è l'effetto Flynn. Questo implica che negli Stati Uniti negli ultimi anni c'è stato un intenso dibattito, insomma, tra i psicometristi e tra, diciamo, le persone esperte o che comunque si occupano di questi problemi legati all'uso e alla possibilità, diciamo, di avere delle perizie psicologiche o delle perizie psichiatriche in un contesto come quello penale americano, dove questi problemi sono estremamente rilevanti oggi. Perché anche il ritardo mentale evolve nella misura in cui evolve tutto. Ci sarebbe un sistema fantastico per evitare questi problemi, cioè non avere la condanna a morte. Ma questo è morte. Esatto, non avere. Grazie Gilberto Corbellini, grazie, e buon lavoro. Buone, grazie a te, ciao. Quante cose avremmo potuto ancora raccontarvi parlando di scienza, mille altre, ma non c'è stato più tempo. tempo tiranno. Vi ricordate cosa diceva Hector Berlioz, grande compositore di musica? Il tempo è un grande maestro. Peccato che uccida i suoi allievi. Buona settimana a tutti, ci sentiamo qui fra 7 giorni.